609. Pizza alla napoletana. Pasta frolla metà della ricetta A del numero 589, oppure l'intera ricetta B dello stesso numero. Ricotta grammi 150, mandorle dolci con tre amare grammi 70, zucchero grammi 50, farina grammi 20, uova numero 1 e un rosso, odore di scorza di limone o di vaniglia, latte mezzo bicchiere. Fate una crema col latte, con lo zucchero, con la farina, con l'uovo intero sopra indicato. E quando è cotta ed ancor bollente, aggiungete il rosso e datele l'odore. Unite quindi alla crema la ricotta e le mandorle sbucciate e pestate fini. Mescolate il tutto e riempite con questo composto la pasta frolla disposta a guisa di torta, e cioè fra due sfoglie della medesima ornata di sopra e dorata col rosso d'uovo. Si intende già che deve essere cotta in forno, servita fredda e spolverizzata di zucchero a velo. A me sembra che questo riesca un dolce di gusto squisito. 610. Pizza gravida. Servitevi del seguente composto, uso crema: latte un quarto di litro, zucchero grammi 60, amido grammi 30, rossi d'uovo numero 2, odore che più aggradite. Aggiungete, quando la ritirate dal fuoco, pinoli interi grammi 30, uva passolina grammi 80. Riempite con questo composto una pasta frolla, come avete fatto per la pizza alla napoletana, e cuocetela come la precedente.